fuoco ed assi inconoscibili. Forza che alimenta il fuoco del disordine costituito, forza che livella e sterpe a barbica che ha verità di roccia, forza che distrugge forme, forza che forgia. Io pinte marche del dissenso, salta su, lasciarsi sopra.